si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, staremo insieme sino alle 11, buongiorno da Alessio Maurizi, ricordiamo subito i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è chiocciola, si può fare 24, il mio chiocciola, Ale Maurizi. Andiamo subito a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi daremo uno sguardo all'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, più avanti apriremo il numero verde aspettando i vostri interventi all'800 24 00 24, ma solo dopo il giornale radio. Naturalmente quotidiani che insomma tengono gli occhi puntati sulle consultazioni di ieri e quello che potrà già accadere stasera o forse addirittura domani, perché il nodo è questo: si stanno allungando un po' i tempi per la nascita del governo Renzi, ci sono già degli ostacoli, gli ostacoli sono il nome del ministro dell'economia che deve piacere a Draghi, deve piacere a Napolitano, deve piacere a tanti, la continuità con il governo Letta richiesta da alcuni, il braccio di ferro del nuovo centrodestra di Alfano che non ci sta a ridimensionare la propria posizione, ma anche il no di alcuni papabili ministri che Renzi invece avrebbe voluto con sé. Cominciamo con il Corriere della Sera. Primi ostacoli per Renzi, trattativa difficile con Alfano. Napolitano che dice serve tempo, l'incarico forse domani. Il nodo dei ministri, Berlusconi, noi saremo responsabili. Ci sono nuove tensioni che si segnalano all'interno del Partito Democratico. Vediamo, diamo uno sguardo, lo facciamo soltanto un paio di volte perché diventa inutile e forse anche ripetitivo, il Toto Ministri. Quello che mette in evidenza il Corriere della Sera è un governo che è sempre più politico e sempre meno, diciamo, di stelle prese da fuori dalla politica. Si fanno i nomi di Epifani per il Ministero del Lavoro, si fa il nome di Lupi per le infrastrutture, Maria Elena Boschi quasi da tutti data come ministro per le riforme, ministro della cultura, Dario Franceschini sarebbe in lizza per i rapporti con il Parlamento o anche per il Ministero della Cultura, così come Riccardo Nencini. Chi è Riccardo Nencini? Non lo conosce nessuno, è il senatore, è segretario del PSI, del piccolo PSI, credo che sia l'unico senatore eletto, e il suo nome è tra quelli in lizza per gli affari regionali. Altro politico è Roberta Pinotti del PD alla difesa, Del Rio renziano alla presidenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefania Giannini segretario di scelta civica all'istruzione, Andrea Orlando all'ambiente. Vedete, tutti i politici, tutti i segretari di partito, proprio perché se il piano di Renzi è fare un governo di legislatura che duri, allora, lo ha detto anche qualcuno ieri all'uscita delle consultazioni, ci vuole un impegno politico, un impegno insomma dei segretari dei partiti che poi possa tradursi in un sostegno parlamentare costante, fisso, senza tentennamenti per ogni passaggio parlamentare. Alla cultura il no di Baricco, l'alter ego di intellettuale del rottamatore, fondatore della scuola Holden, dice non voglio fare il ministro ma semmai impegnarmi nel settore dell'educazione. Prima di proseguire con Renzi, il Corriere ci dà anche questa notizia: l'ex assessore e i danni da pagare all'erario, sequestrato il vitalizio. È una storia davvero curiosa ed è questa qua. L'ex consigliere regionale Giulio Gargano del Lazio, due legislature alle spalle, ex assessore due volte, è stato condannato a pagare 600.000 euro dalla Corte dei Conti perché dopo aver patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione era finito nell'inchiesta sulla sanità pubblica Lady ASL, insomma questo signore condannato a pagare 600.000 euro, come li pagherà questi 600.000 euro? Li pagherà con il suo vitalizio, il vitalizio che da domani il cinquantenne Gargano dovrebbe intascare 3.800 euro netti al mese a 50 anni. È una follia assoluta che sta andando avanti in Italia. questo ex consigliere, questo signor Gargano, i suoi 3.800 euro netti al mese dovrà aspettare qualche anno prima di prenderli, perché gli verranno sequestrati da Equitalia per pagare il danno all'erario che lui ha causato. Il motivo qual è? Adesso ve lo dico. Perché aveva promosso in blocco 445 dipendenti, tutti a spese nostre naturalmente, in maniera immotivata secondo la Corte dei Conti. Insomma, pagherà, però pagherà sempre coi soldi nostri, cioè coi soldi del vitalizio. E che anche questo succede in Italia. Proseguiamo invece con le insidie di Renzi per la nascita del nuovo governo, che per Repubblica sono intanto la minoranza interna del PD, Civati e Casson. Casson dice: la scelta sulla giustizia mette in gioco la credibilità del Partito Democratico, e c'è in forza anche il voto dei civatiani e dei seguaci di Casson, che potrebbero essere anche una decina di senatori, non poco, per i numeri che ci sono al Senato. Vediamo, dice Casson: teme un inciuccio sulla giustizia, più che temere, ho l'impressione che sarà proprio così. Già il punto di partenza è negativo, perché il governo Letta aveva scelto in materia di giustizia e legalità un basso profilo. Basta pensare ai casi Shalabayeva e Cancellieri, che lo stanno a dimostrare, e devo dire che su questo è difficile dare torto a Casson. Si appresta a votare contro il governo Renzi, è prematuro parlarne. Certo che quando si è discusso di giustizia, conflitto di interessi e legalità con il centrodestra di Alfano, Schifani e Giovanardi, ci siamo sempre scontrati di brutto. Poi c'è Civati che dice: verso lo strappo con 6 senatori, non lo dice ma è quello che scrivono i giornali, potremmo fondare la nuova sinistra. Questo invece lo ha detto con la sponda tra l'altro di Nichi Vendola, che ha detto no netto a Renzi, quindi potrebbe essere disponibile a formare un gruppo parlamentare, un gruppo politico, ma questo non ha a che fare con le sorti del governo Renzi, se non per quanto riguarda le defezioni di alcuni parlamentari del PD. C'è anche il colloquio con Romano Prodi. Colloquio, no, sono le indiscrezioni, le anticipazioni, l'intervista che andrà in onda questa sera a Ballarò di Prodi, che si dice stupito dalla pazienza degli italiani. E in effetti è vero, perché succede di tutto ma nessuno si incavola più. Però dice: guardo a Matteo con curiosità. Manda tanti auguri a Renzi da Ballarò, il professore, che guarda con molta attenzione, con molta curiosità. C'è un cambiamento e sono obbligato a guardarlo, e lo faccio molto volentieri. Una specie di endorsement, ma l'aveva già fatto in passato Prodi nei confronti di Renzi. Però poi precisa Prodi: il nuovo non è mica questione di età, il nuovo è sapere che cosa succede al mondo, è capire che non è più in gioco solo un gioco di provincia, il nostro è una sfida mortale. Questo per quanto riguarda Prodi nei confronti di Renzi. Dicevamo, il nodo, uno dei nodi aperti, così come ce lo ricorda anche la stampa, è quello del Ministero dell'Economia. Renzi cambia strategia, un politico all'economia. Si era parlato inizialmente dell'operazione Reichlin, in corsa per la vice direzione della Banca d'Inghilterra, editorialista del Corriere della Sera, economista, che però sarebbe titubante. Il ministro dell'economia deve piacere anche a Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea deve piacere anche a Napolitano, perché deve garantire continuità di governo. Insomma, tanti paletti, e Renzi è andato in tilt. Ieri pomeriggio, scrive la stampa, è circolata anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno, quello di Romano Prodi. Escludendo però Prodi, che non è disponibile, ma anche Giuliano Amato, che ha le competenze ma non il profilo giusto per un leader come Renzi, sono pochissimi i politici di esperienza autorevole vicino al sindaco di Firenze. Quello di maggior peso è Piero Fassino, sindaco di Torino, presidente dell'ANCI, già leader dei DS che vinsero le elezioni del 2006, anche se allo stato non risultano sondaggi di Renzi in questa direzione. Il nodo del Ministero dell'Economia pare che sia uno di quelli più importanti. L'altro è, in un retroscena che scrive Federico Geremicca, il no di Guerra e Baricco a Renzi. Andrea Guerra, patron di Luxottica, l'azienda che va a gonfie vele, e Alessandro Baricco, fondatore della Scuola Holden, l'abbiamo già visto prima, entrambi sono orientati verso il no, lasciando Renzi a bocca asciutta per questi dinieghi. Lui probabilmente su queste figure ci puntava. C'è poi il commento di Luca Ricolfi, che dice, è importante questo commento, l'obbligo di mirare in alto. Perché, dice Ricolfi? Perché Caro Renzi, devi sapere che dalla primavera del 2012 ad oggi, ossia da quasi 2 anni, la condizione economica e sociale del paese è enormemente peggiorata. Certo, ci raccontano che la ripresa è alle porte, ma è un racconto altamente fuorviante, scrive Ricolfi. Nei primi drammatici anni della crisi, tra il 2008 e il 2011, l'Italia perdeva 76.000 posti di lavoro all'anno. Pensate che nel 2012 le perdite annue sono salite a 248.000, nel 2013 i posti di lavoro che si sono persi in Italia, nonostante le cure, anzi forse anche a causa delle cure di Monti e Letta, sono stati 433.000, cioè la crisi sta andando peggiorando. Vabbè, questo lo sapevamo perché sull'occupazione l'effetto della crisi è ritardato, come si dice. Altro punto che ci ricorda però Ricolfi è questo: mentre i nostri governi si affannavano a convincere l'Europa che stavano facendo i compiti a casa, il giudizio dei mercati su di noi non ha fatto che peggiorare. Per rendersene conto basta usare il termine di paragone appropriato, che non è la Germania, lo spread, che adesso va bene perché è attorno a 200 punti, quindi diciamo, non è allarmante. Il confronto, secondo Ricolfi, va fatto con i PIGS, gli altri paesi in difficoltà: Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna. Allora, nella primavera del 2012 il vantaggio dei nostri titoli di Stato italiani nei confronti di quelli dei PIGS era di circa 6 punti. Adesso il vantaggio si è ridotto a 1 punto, cioè abbiamo perso di 6 volte nei confronti degli altri paesi in difficoltà in Europa. Quindi se andiamo avanti di questo passo, dice Ricolfi, chissà cosa succede. È un po' quello che, per un'altra ragione, scrive anche il Sole 24 Ore, un altro avvertimento a Renzi. Tempi più lunghi per Renzi, il titolo, ma c'è già un rischio Conti. E questo è un problema. Qual è il rischio Conti? Lo scrive Dino Pesole sul quotidiano Sole 24 Ore. Ed è questo. Qualche tempo fa l'Italia è rientrata dalla procedura di deficit e ha ottenuto la possibilità di sbloccare 2,7 miliardi di euro per gli investimenti, cioè di poter allentare un po' il patto di stabilità. Però questo a patto di rispettare la marcia sui conti pubblici. Se questa cosa invece non andasse in porto, questi 2,7 miliardi di euro che il governo ha già messo a saldo per coprire delle spese non ci sarebbero, e allora il deficit, l'asticella del deficit salirebbe dal 2,5 al 3% del PIL, cioè saremmo vicini allo sforamento. Ecco, allora scrive Dino Pesole che il governo Renzi, per riagganciare il treno della flessibilità europea e immettere nuova benzina nel motore della ripresa, dovrà tra i primi atti concreti garantire che l'aggiustamento strutturale chiesto da Bruxelles sia effettivamente conseguito. Ne consegue che già prima della presentazione a metà aprile dei nuovi documenti programmatici, già quest'anno dalla spending review dovrà essere sostanzialmente definito, cioè tutti gli incassi della spending review devono essere definiti entro aprile, altrimenti non ci sono le coperture per la manovra aggiustamento strutturale e quindi saltano i 3 miliardi. Insomma, avete capito, il Ministero dell'Economia è un nodo strutturale fondamentale anche per questa ragione. Ecco perché, come scrivono tutti i giornali, i tempi della nascita del governo Renzi si allungano, però c'era da aspettarselo. Chi poteva immaginarsi che sarebbe stata una passeggiata? Nessuno. E non sarà una passeggiata né per l'Italia né per Renzi. 800 24 00 24, iniziamo a parlare con voi ascoltatori dopo il giornale radio. Adesso una pausa, torniamo tra poco con l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Questo nostro paese, se non viene migliorato nella infame burocrazia, non ne usciamo. Speriamo che il governo trovi un metodo per sburocratizzare, per rendere più semplificato tutto, perché negli altri paesi in 2 giorni si fa tutta la documentazione per aprire un negozio, per aprire uno studio, per aprire un laboratorio. In Italia ci vogliono mesi, mesi e mesi. Se non si fa così, è un ulteriore sistema per andare a fondo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Strade in diretta. Sono qua code per lavori sulla tangenziale ovest di Milano all'innesto con l'autosole, lavori anche in Veneto, chiusa la statale Romea tra Marghera e Mestre Ovest all'innesto con la tangenziale di Mestre, qui le carreggiate torneranno percorribili per le 18. Strade chiuse a Napoli dove si corre la maratona disagi nel capoluogo partenopeo almeno fino alle 14. Persiste la nebbia sulla pianura emiliana, su pianure valli piemontesi, nelle valli appenniniche dell'interno dalla dalla Liguria alla Calabria. Noi torniamo tra mezz'ora. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e restiamo in edicola, andiamo come ogni domenica a quest'ora a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, e ritroviamo il suo curatore responsabile, il direttore Armando Massarenti. Buongiorno e buona domenica Armando. Buona domenica, buongiorno a tutti. Allora, da che cosa vuoi partire oggi per ingolosirci nel, diciamo, tra i meandri dei dibattiti, dei grandi appuntamenti, le rassegne che ogni domenica arricchiscono le nostre letture grazie al domenicale, Armando? C'è l'imbarazzo della scelta, come al solito abbiamo 26 fitte pagine di argomenti tutti molto... molto impegnativi e molto anche, diciamo, a volte anche abbastanza ricreativi. Comunque partiamo da un tema molto serio, che è quello della scuola, perché Franco Lorenzoni, che penso sia qui anche... Sì, è già in collegamento con noi. Gli diamo il buongiorno. Fa un articolo che rimanda, ecco, si accennava prima ai tempi lunghi del governo Renzi, ecco, un tema sicuramente centrale per qualunque governo oggi dovrebbe essere quello della scuola, non tanto per riformarla, ma che è qualcosa che molti hanno già cercato di fare con esiti non particolarmente significativi, ma soprattutto per prendere di petto una serie di problemi, e quello di questo ci parlerà poi Franco Lorenzoni. Io voglio in un pezzo molto bello che apre questo numero, però vorrei legare questo tema magari ad altre cose che stanno all'interno. Una è una pagina che noi di riflessione su cos'è l'umanesimo, perché troppo spesso in Italia lo si contrappone a cultura scientifica, si perde dell'umanesimo quella caratteristica che invece in un pezzo che noi ospitiamo di Quastella ci viene da definito a partire dalla cultura dell'Ottocento, insomma sostanzialmente da von Humboldt e dal modo in cui abbiamo strutturato le università e dal modo in cui questa parte importante della nostra cultura, decisiva della nostra cultura, si lega agli aspetti più conoscitivi. Ecco, un tema come questo, un tema quello della scuola, in fondo si legano, e si legano anche a un terzo tema, una terza pagina in cui Umberto Bottazzini ci parla di una garzantina, no? Queste famose enciclopedie compatte, che è una garzantina della matematica, e anche qui si vede la ricchezza di una materia che potrebbe sembrare molto arida, a molti sembra molto arida, ma che in realtà è fatta di una linfa assolutamente infinita di idee. Poi questa garzantina in particolare è fatta in maniera appunto da essere piuttosto anche giocosa, ecco, non soltanto ci spiega tutta l'origine dei concetti in 1500 fitte pagine, ma ci mostra anche come si può giocare con la matematica, con gli enigmi, no? Eccetera. Ecco, questo, ho preso solo tre piccoli saggi, insomma, per inquadrarli in quel discorso che noi stiamo continuando da alcune settimane, che riguarda di nuovo la politica, se vogliamo, ma la politica nella maniera più alta, e quindi riproponiamo anche questa settimana un intervento sul dibattito sul Senato delle competenze del saper certo. fare, la nostra idea di riforma del Senato, che non deve essere semplicemente un modo per piazzare lì alcuni politici, magari, che sì, certo, giusta l'idea magari delle autonomie, di una maggiore rappresentanza delle autonomie, ma dargli un senso a questo nuovo Senato, e il senso può essere proprio quello della cultura, rimettere al centro un'idea di cultura, un'idea di conoscenza che purtroppo molto spesso questo paese ha dimenticato. Insomma, e quindi torniamo adesso alla scuola e al nostro ospite Franco Lorenzoni. Accogliamo il buongiorno, maestro Franco Lorenzoni, una delle firme del Sole 20, del domenicale, del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E buona domenica. Io leggo, nei prossimi 15 anni il ricambio dei professori sarà quasi totale. Il paese ha un piano per riaccendere la passione? Oggi lei, Lorenzoni, credo che provi a rispondere anche a questa domanda. La sua risposta intanto qual è? No, il problema è enorme. Cioè, diciamo, noi per prenderci cura del futuro del nostro paese, credo che dobbiamo ragionare su una dispersione molto rischiosa, che è quella la dispersione delle intelligenze. Cioè, molti ragazzi oggi non credono che studiare, che cercare di capire, ragionare, migliori il loro futuro, cioè migliori la loro posizione lavorativa. E c'è una disaffezione allo studio impressionante. Non è solo la diminuzione degli iscritti all'università, è proprio l'atteggiamento, il rapporto col sapere che si ha nelle scuole, che è molto che in questo momento ha una gravissima crisi. Allora, per cercare di affrontarla, noi dobbiamo partire dagli insegnanti. Dobbiamo avere degli insegnanti non solo molto motivati, molto competenti, ma capaci di amare i ragazzi, cioè diciamo, i ragazzi così come sono ora. Cioè cercare di lanciare specie di ponti tibetani tra queste due culture. Diciamo, la cultura, prima si parlava dell'umanesimo, insomma, è chiaro che la relazione tra la scienza e la letteratura e l'arte, che dovrebbe essere la chiave, diciamo, di tutto l'insegnamento, per poterla far arrivare ai ragazzi, c'è bisogno di dialogo, di conversazione, di capacità di coinvolgimento. Questa è una cosa che bisogna imparare. Molti insegnanti giovani che arrivano nelle scuole non hanno mai incontrato nel loro percorso di studi la conversazione, il dialogo, la capacità di coinvolgere gli altri. E questo naturalmente è gravissimo, perché siccome nei prossimi anni appunto circa la metà degli insegnanti cambierà, perché ci sono molti insegnanti anziani, noi dovremo fare un piano straordinario di formazione dei nuovi insegnanti, che parta dal metodo, dalla capacità, diciamo, di mettere in discussione, di mettersi in discussione e mettere in discussione la relazione educativa, perché le scuole siano un luogo di costruzione culturale. Oggi non lo sono, purtroppo. Senta, siamo in attesa della nascita di un nuovo governo e quindi anche di un nuovo ministro dell'istruzione. Quanto può contare il nome del ministro, quella casella lì? Quanto è importante per realizzare quello di cui lei ci stava parlando? Che aspettative ci sono da parte sua, ma anche da parte di chi porta avanti questa importante aspettativa per un rinnovo, insomma, dell'entusiasmo, ma non solo, nel mondo della scuola, che formerà le nostre future classi dirigenti? Quindi, come ci sta giustamente ricordando lei, è cruciale in tutto e per tutto. Le aspettative sul ministro dell'istruzione, Lorenzoni, quali sono? Allora, conta molto, nel senso che io penso che la scuola si può riformare dal basso e dall'alto insieme. Dal basso è importantissimo, cioè valorizzare tutti gli insegnanti, quel patrimonio di esperienze enorme che c'è, che è molto disperso, perché gli insegnanti più bravi non sono valorizzati, e questo è gravissimo. Dall'alto c'è bisogno di buone leggi e di finanziamenti. Allora, per esempio, nella scuola di base ci sono le nuove indicazioni che sono diventate legge l'anno scorso. Ora, per formare gli insegnanti a queste nuove indicazioni sono stati stanziati 4 euro a insegnante. Questo è ridicolo, evidentemente, no? Allora, se non si investe nella scuola, nell'educazione, nella cultura, è impossibile. Diciamo, il rischio è che succeda che c'è una grande massa di giovani abbandonati ad una ignoranza, perché di questo si tratta, e una piccola elite che chiaramente si fa la strada da sola. Questa è una cosa tristissima per un paese, dal punto di vista ovviamente sociale, culturale, ma anche dal punto di vista economico, perché cioè nessuno sviluppo è possibile se non c'è investimento nella conoscenza. Certo. Armando Massarenti, abbiamo ancora un minuto e mezzo per commentare, se vuoi, quello che ha appena detto Lorenzoni, o anche per lanciare qualche altro appuntamento del domenicale. Armando. Ma sì, le ultime parole del professor Lorenzoni sono proprio quelle che richiamano il nostro manifesto per la cultura: niente cultura, niente sviluppo. Noi dobbiamo ripartire da lì. Certo, ecco, noi con il domenicale facciamo un onesto lavoro settimanale in cui quella scintilla di cui lui parlava cerchiamo di accendere in tutti i modi possibili. Potrei citarti qualche altro argomento. Abbiamo un pezzo di Hannah Arendt, niente meno, che un inedito che parla di Giovanni XXIII, è un pezzo molto curioso perché è come se, questa grande filosofa, di cui tra l'altro c'è appena uscito il film della Fontrotta, qui ci fa un ritratto di Papa Roncalli e si stupisce che la Chiesa quella volta lì abbia scelto un prelato di quelli che davvero credono nel messaggio di Gesù, il cui modello era davvero il messaggio di Gesù, sottintendendo che chiaramente molto spesso non succede così. E poi abbiamo a proposito di un'idea che vogliamo avere di miglioramento della società, e tornando anche in questo modo di nuovo alla scuola, c'è un bel intervento di Roberto Casati, sì, che ci sottolinea il fatto che noi parliamo sempre di innovazione, non parliamo più di progresso. E che questa è una perdita, perché è una perdita di valori. Quando parlavamo di progresso sembrava una parola troppo dissonante, ma in realtà sottolineava meglio il fatto che quando noi vogliamo migliorare qualche cosa, per esempio la scuola, qui abbiamo in mente dei valori, un benissimo miglioramento più generale della società. Dobbiamo chiudere, grazie Armando Massarenti, grazie a Franco Lorenzoni, grazie a voi cari ascoltatori. Noi ci troviamo dopo il giornale radio, mi raccomando, anche con i vostri interventi al numero verde, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 il nostro numero verde, se volete intervenire in diretta per commentare quello che sentite, per raccontarci, come facciamo ogni weekend, come abbiamo fatto ieri, che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Oppure, se invece volete partecipare al contest di oggi per vincere i biglietti della mostra in palio questa settimana, il personaggio della settimana, il primo indizio ve lo daremo tra pochissimo. Si vincono i biglietti per la mostra High Stasis alle origini delle sensazioni, Robert Irwin e Jane Starrell a Villa Panza in provincia di Varese, una mostra organizzata dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta tra pochissimo, dopo la pausa per il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Maybe he loves us for all our races. Maybe he hates us for all so races. Maybe he sees us when we don't care. It is heaven right here, but it's hell over there. And maybe the meek will inherit this earth, cause it was written before so. Tutto cambia, ci ricorda questa canzone, e cambia per esempio piano piano anche il rapporto dell'Europa con gli OGM, una novità degli ultimi decenni che fatica a farsi comprendere soprattutto. La mancata decisione di questa settimana è stata rimandare alla Commissione europea l'autorizzazione per la produzione anche in Europa di una varietà di OGM, il mais OGM Pioneer 1507. Come sapete, l'Europa negli anni ha autorizzato poche coltivazioni di OGM, c'è stato tutto un dibattito, una serie di direttive e di sospensive. In Italia c'è una sostanziale chiusura nei confronti degli OGM, c'è una divisione nel dibattito tra favorevoli e contrari. Ebbene, questa mancata decisione del Consiglio europeo, che rimanda alla Commissione di decidere, essendoci stato precedentemente un parere favorevole dell'autorità sanitaria europea, è molto probabile che la nuova coltivazione OGM si faccia strada in Europa. Quindi la notizia è questa: si è aperta una porticina per questa nuova coltivazione OGM in Europa. Noi ne vogliamo parlare prima di tutto con Pietro Dri, che è sindaco di Porpetto in provincia di Udine. Buongiorno. Buongiorno. Un sindaco che è favorevole alle OGM e ha proposto di coltivarli anche nei territori del suo comune, stante il fatto che in Italia ancora l'anno scorso un decreto, per quanto poi messo in discussione da Bruxelles, confermava la proibizione sostanzialmente di coltivare OGM in Italia. Ma ne vogliamo parlare anche con un agricoltore, un imprenditore siciliano che fa tutt'altro che produrre OGM, Giuseppe Lirosi, imprenditore agricolo di Terre Frumentarie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Che porta avanti una coltivazione di antichi semi siciliani che corrispondono a una risposta opposta rispetto a quella degli OGM al problema dei parassiti, al problema che è all'origine proprio della coltivazione degli OGM, perché si dice che gli OGM servono proprio per avere delle piante che resistono ai parassiti e quindi produrre meglio e di più. Cominciamo con il sindaco di Porpetto, Pietro Dri. Lei recentemente ha detto questo: venite pure a produrre nel mio territorio. Però, sindaco, se non sbaglio, in Italia non si può. Ma in effetti questo che è stato definito un assist ai produttori di venire nel mio territorio è stata una sorta di provocazione giornalistica, perché io non è che posso permettere di superare insomma le leggi europee, neanche tantomeno quelle nazionali e regionali. La mia provocazione doveva essere la spinta a affrontare questo tema finalmente in maniera ragionevole, basandosi su dati scientifici disponibili e non su pregiudiziali politiche né ideologiche che di fatto hanno trasmesso nella gente una grande paura, hanno sollecitato un'istintività quasi primitiva senza sapere di fatto di che cosa si tratta, che cosa sono questi OGM e in definitiva quali benefici possono portare anche alla comunità umana. Lei si riferisce per esempio anche alle prese di posizione del governatore del Veneto Luca Zaia, che si è detto nuovamente contrario a... però devo dire che ha dato una motivazione non tanto legata alla specificità dell'OGM quanto alla, secondo lui, alla peculiarità del territorio veneto, la regione che esporta di più in termini di produzione agricola, e dice: noi dobbiamo avere una vocazione alle eccellenze, a esportare il nostro territorio, quindi con prodotti locali, magari non su vasta scala, quindi non abbiamo bisogno come il Canada o come l'Argentina degli OGM. Questo è il suo punto di vista. Lei a tutto questo invece risponde, tra l'altro lei è anche professore di patologia generale all'Università di Trieste. Sì, quindi... esatto, io ho insegnato e ho fatto ricerca per oltre 40 anni, quindi ho potuto documentarmi in maniera seria. Ecco, quindi dal suo punto di vista, perché è favorevole agli OGM? Perché ci possono dare tanti vantaggi? Quali? Ma allora, qui il discorso è lungo, però io volevo fare una osservazione a quanto ha detto Zaia. Se si riferisce alle culture, alle colture di mais o frumento, quali sono le specificità territoriali? Tutti gli ibridi che attualmente si seminano non sono di origine locale, va bene? Non ci sono più i semi di 50 anni fa, 20 anni fa, sono tutti acquisiti dalle grandi multinazionali. Ora queste multinazionali forniscono questi ibridi che attualmente vengono usati e forniscono anche le sementi transgeniche, quelle geneticamente modificate, che appunto... Però mi scusi, se l'obiezione sua è questa, allora poi l'intervista che facciamo subito dopo con Giuseppe Lirosi dimostra che invece i semi antichi si possono recuperare, si possono coltivare e possono dare anche alcuni vantaggi. Questo, diciamo, a favore dell'argomento di Zaia. Però sì, giustamente lei ha voluto puntualizzare. Esatto, i benefici. I benefici. Allora, le spiego i benefici del mais che attualmente viene seminato nel Friuli, o comunque insomma è stato introdotto nel Friuli. Si tratta di un mais che possiede nel suo genoma un gene su 32.000 che codifica per una proteina naturale, perché si trova nell'ambiente in un batterio che si chiama Bacillus thuringiensis e che si trova nel terreno, e questa proteina è tossica per le larve di alcuni insetti, fra cui la piralide, che è il principale infestante del mais. Chiaro. Quest'anno in Friuli, l'anno scorso, per le condizioni avverse climatiche, il mais è risultato devalutato in maniera paurosa, perché era infestato da questa piralide, e la piralide forma delle caverne, dei canalicoli nel fusto nel tutto, no, del mais. Quindi il tema è quello dei parassiti. Cresce un fungo, sì? Che si chiama... adesso non entriamo nel dettaglio del singolo parassita, perché non interessa. È patotossico e cancerogeno. Quindi il mais non teogenico deve essere pesantemente irrorato con pesticidi. Va bene, ecco, è questo l'argomento chiave, avete sentito. Il mais non transgenico deve essere irrorato di pesticidi, altrimenti è invaso da questi parassiti che diminuiscono la produzione e la qualità anche della produzione. Giuseppe Lirosi, imprenditore agricolo siciliano di Terre Frumentarie, prima di farla entrare, se crede, anche in questo dibattito con le sue opinioni, ci può raccontare lei di che cosa si occupa, che cosa produce in Sicilia? Bene, la mia azienda da 15 anni è in biologico, dove non sono ammessi assolutamente gli OGM. Ho cominciato a sperimentare già 15 anni fa i grani locali siciliani, che erano conservati con cura e dovizia dalla Stazione Sperimentale di Granicoltura, che è un antico istituto del 1927, che però purtroppo da un anno è senza rappresentante legale. Ho recuperato dall'estinzione di nascosto, come se fossero marijuana, quattro varietà antiche, perché era illegale seminare questi frumenti, perché erano stati messi nel dimenticatoio ed erano quasi diventati illegali seminarli, perché se mi avessero scoperto 10 anni fa che stavo iniziando a seminare questi frumenti, mi avrebbero bloccato i contributi europei e i contributi europei, perché i fondi europei sono legati all'utilizzo di certe semine, che sono semine di che tipo? Sono legate all'utilizzo di varietà di frumenti, di cereali, sì, iscritti nelle liste nazionali. E quelli che cercava di produrre lei non erano iscritti, perché sono grani antichi. Però no, i grani antichi che lei ha seminato, che vantaggi hanno, per esempio, rispetto al discorso dei parassiti? Perché c'è un tema che va diffondendosi sempre più, e lo dico come incipit, come parentesi rispetto a quello che ci racconterà lei, Lirosi, ed è questo, cioè utilizzare varietà antiche e soprattutto varietà molto miste sembra che possa favorire la lotta ai parassiti, cioè senza ricorrere agli OGM si può seminare questo tipo di varietà che avrebbero lo stesso effetto, è vero? È vero, sì, perché il miglioramento genetico fatto dalla scienza moderna ha portato tutte le varietà cerealicole, ma non solamente cerealicole, anche fruttifere, anche animali, ad allontanarsi dalla genia di base e quindi a essere così specializzati e migliorati geneticamente, fra virgolette, che il loro sistema immunitario si è destabilizzato perché è stato allontanato tantissimo dalla natura. Quindi oggi si pensa di risolvere i problemi creati col miglioramento genetico, di risolverli con gli OGM. Mentre invece tutte le varietà locali, antiche, mai mutate geneticamente, mai assoggettate a mutageni indotte, sono così selvati, vicino al selvatico, alla natura, sono così forti che non hanno bisogno, che si difendono da soli da malattie fungine. Quindi lei non usa antiparassitari? Assolutamente no, perché a parte che sarebbe una spesa inutile, perché non abbiamo bisogno di difenderli, perché le piante si difendono benissimo e da attacchi fungini e anche alla competizione della biodiversità, da altre piante che oggi vengono chiamate piante infestanti, ma che sono piante che appartengono alla biodiversità con un loro compito specifico all'interno della natura. Ma la specializzazione, sì, l'andare verso la monocultura o la monocoltura o la ricerca della linea pura, che mi ricorda la ricerca fatta da qualcuno durante la seconda guerra, che ha fatto scoppiare la seconda guerra mondiale. Beh, lì però era un pochino più grave la questione, riguardava gli esseri umani, non le piante, però insomma lei vuole fare anche questo paragone con il nazifascismo. Però mi dica una cosa, i prodotti che lei ne ricava, cioè i frumenti che lei ne ricava e anche i prodotti finiti, che tipo di prodotti sono e che vantaggi hanno dal suo punto di vista? Ma i vantaggi sono che innanzitutto sono assolutamente digeribili, perché il glutine è stato sperimentato dall'essere umano per circa 9.000 anni ed è quel tipo di glutine. Oggi il glutine è fatto con il miglioramento genetico, la mutagenesi indotta, è stato cambiato e lo ha portato ad avere un indice più alto, quindi è diventato indigeribile. Tutta la ricerca scientifica è come se avessi ripreso la ricerca scientifica fatta dalla civiltà rurale in 9.000 anni, perché questa ricerca che ha fatto il contadino in 9.000 anni sì. È la ricerca più bella, più fruttuosa, in quanto la biodiversità è stata creata dalla civiltà rurale, non dalla scienza. Senta, tra l'altro, mi scusi un attimo, a questo punto lei è riuscito a ricevere questi fondi europei o per il fatto di seminare queste varietà è ancora a secco? Addirittura no, sono riuscito a creare una commissione nella regione siciliana che serve per l'iscrizione di queste varietà in un registro a parte, quindi abbiamo fatto un gol in questo senso. Quindi i fondi adesso li prende? I fondi sì, certo, assolutamente sì. Voglio tornare un attimo, scusi. Caso studio FAO, l'azienda è un caso studio FAO perché... Certo, proprio per queste ragioni di cui abbiamo appena parlato. Voglio tornare brevemente, prima di salutarvi tutti e due, anche col sindaco di Porpetto, Pietro Dri. Sì. Che ne pensa di questa di questo che abbiamo appena sentito? Innanzitutto non c'è, contraddizione tra le due esperienze, OGM o semi-tradizionali. Sì. Sono modalità complementari di affrontare il problema della agricoltura e della produzione di sementi, eccetera. Volevo dire che è impreciso quanto ha detto il produttore siciliano, mi pare, per quanto riguarda il glutine che viene modificato. Negli OGM non c'è nessuna mutagenesi indotta, come lui ha affermato. Si tratta di un gene che viene aggiunto. Se anche i semi tradizionali che lui usa avessero una qualche deficit, potrebbero essere migliorati introducendo un gene che conferisce protezione o vantaggio rispetto a questo deficit. Sì, adesso però non volevo che entraste in dissidio su singoli punti, perché sennò non si capisce più nulla. Voglio dire che le due cose sono complementari. Vanno bene. Questo mi sembra già una risposta comprensibile. Sì. Alla sua impostazione, dico solo questo, che siccome per gli OGM non è stata dimostrata nessuna pericolosità né per l'uomo né per l'ambiente né per gli animali, e che questi OGM sono introdotti nel mercato mondiale da oltre 20 anni e si trovano in tutti i consorzi e i mangimi venduti in tutte le nostre agrarie, io dico che prendiamo atto di questo fatto e se OGM sì o OGM no lo decidano mercato, produttori e consumatori. Questo sarebbe auspicabile, caro sindaco, però se ha visto quello che è successo in Europa, cioè mesi e mesi, anni di attese per decidere, poi di fatto quasi non si decide, ma si lasciano andare delle decisioni striscianti. La lobby anti-OGM, ma forse però forse è anche la lobby OGM. Allora via, mettiamola così, non sarà solo la lobby anti-OGM. Mi devono dire sì. Perché non possono essere prodotti, mi devono dire se l'OGM è un veleno, perché se è un veleno dobbiamo vietarlo, se non è un veleno il discorso delle contaminazioni delle cose non so che cosa c'entri, se non è un veleno non è un veleno. Non era mia intenzione riaprire questo dibattito perché non ne abbiamo le capacità. Grazie al sindaco di Porpetto in provincia di Udine, Pietro Dri, per essere stato con noi. Lirosi, se vuole aggiungere qualcosa, sì, in chiusura, volevo dire visto che era stato tirato in ballo, sì. Che quando io parlo di mutagenesi indotta non parlo di OGM, parlo di quello che è stato fatto con i semi fino a oggi, perché gli OGM fino a oggi sono stati vietati in Italia. Senta, però mi dice perché invece secondo lei gli OGM, se lo ritiene, oppure lei è d'accordo con Dri, sono due vie complementari, no, il modo che coltiva lei e il modo in cui si coltivano gli OGM. Sono diametralmente opposte, una conserva il territorio, l'altra lo distrugge, gli OGM. Perché lo distrugge? È già successo in Argentina, negli anni 90 la crisi finanziaria argentina è stata provocata dall'introduzione degli OGM da parte dell'America. In 4 anni migliaia e migliaia di ettari furono destinati alla soia transgenica, poi non riuscirono più a produrre perché avviene una scompensazione assoluta nel terreno, il suolo non produce più. Questo è un inganno del terzo millennio e spero che il sindaco non lo applichi nel suo territorio perché lo porterà alla distruzione. Va bene, non dipende solo da lui naturalmente, la guerra civile dell'Argentina è stata provocata dal crollo del pilastro agricolo argentino. E l'Argentina oggi sta buttando fuori gli OGM perché ha già pagato con il sangue l'introduzione degli OGM. C'è un altro modo di fare, sì, di fare produzione, perché oggi abbiamo la paura e il panico di non poter più produrre. Innanzitutto cominciamo a togliere o a ridurre il mais dalla pianura, dalle nostre pianure, perché potremmo mangiare benissimo in maniera diversa, utilizzando meno carne. E poi c'è il miglioramento genetico partecipativo, che è un metodo antichissimo di mescolare insieme tante varietà di frumento che fra di loro, quindi l'attivazione della variabilità. Sì, questo l'abbiamo già detto, che ha anche effetti sui parassiti, perché diminuiscono. Che permette di attingere a più nutrienti del terreno e anche ad agganciarsi ai cambiamenti climatici che sono in atto, perché avviene un'evoluzione continua del miscuglio. Noi facciamo agricoltura liquida che si adatta al territorio. Grazie Di Rosi, grazie. Dobbiamo chiudere qua, siamo andati lunghissimi. Abbiamo comunque, credo, spiegato quello che succede o può succedere in Italia. Una storia è quella del coltivatore siciliano che usa grani antichi biologici e quindi non ha bisogno degli OGM. Una storia è quella del sindaco in provincia di Udine che è favorevole alla produzione di OGM per le ragioni che ha appena spiegato. 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo anche con il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno a Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti. Ciao. I nostri ascoltatori, buona domenica. A proposito di ascoltatori, li voglio belli scatenati sul tema degli OGM che abbiamo sollevato a partire da questa non decisione europea che ha deciso di far decidere la Commissione europea, ma in ogni caso sarà probabilmente un sì a nuove coltivazioni OGM in Europa. Abbiamo raccontato soprattutto una bella storia, quella della Sicilia, e poi anche un punto di vista, quello del sindaco della provincia di Udine, 800 24 00 24. Poi c'è anche il nostro personaggio della settimana, di Carlo, sì, cominciamo a dare qualche indizio. Devo andare io? Vai, sì. È un sindaco. Oh, vai, così. Si vincono i biglietti della mostra Aesthesis all'origine delle sensazioni, Robert Irwin e Jane Starr alla Villa Panza a Varese. Sono i tuoi minuti d'oro. Tocca a te, Carlo. Allora, sappiamo tutti che la vera notizia su Sochi, che infatti viene tranquillamente definita l'Olimpiade dell'omofobia, sono le vergognose leggi anti-gay che ci sono in Russia, come vengono trattati i ragazzini in Russia, che vengono spogliati, gli vengono messi dei cartelli al collo, vengono mandati in giro per strada, rasati a zero, anche picchiati e menati, e la polizia di solito gli dice: vabbè, sei gay, di che cosa ti lamenti? È ovvio che vieni aggredito, quindi questa sarebbe la notizia. Però siccome non voglio essere tacciato di parlare sempre di gaytudine, quello di cui parlo è un'altra cosa. Impazza insieme a altri hashtag, diciamo l'hashtag Sochi Problems su Twitter, ma anche in tutti gli altri social network, quindi su Facebook. Perché? E di che cosa si tratta? Sono giornalisti e atleti che in qualche modo, scherzando ma neanche troppo, diciamo fanno vedere tutti i problemi che ci sono nella struttura del villaggio olimpico, che è stato, pare, costruito in fretta e furia per riuscire ad arrivare per tempo. È un hashtag molto divertente da seguire su Twitter, perché tutti i giornalisti e atleti postano delle fotografie dove tipo si vede il colore dell'acqua che esce dai rubinetti, che è tutto tranne che sembra tutto tranne che acqua, diciamo, e nemmeno vodka, perché anche la vodka ha lo stesso colore, quindi non so, sembra una grappa molto barricata, esce dalla roba gialla che non si capisce. Poi ci sono foto di orinatoi da muro che però non hanno il collegamento con l'acqua, quindi sono uguali ai nostri, quelli diciamo degli autogrill, però non si capisce esattamente dove andrà a finire quello che uno ci fa dentro. Poi ci sono delle bellissime immagini di prati bianchi che vengono dipinti di verde con degli spray colorati, perché per far bella figura e per venire bene nelle fotografie, per esempio. Altro che OGM. Ma poi c'è anche la questione della neve, perché è stato detto che la neve non era granché, soprattutto poi ci sono delle temperature molto alte, perché in realtà si non sta sciogliendo la neve. Esatto, sì, che potrebbe anche essere. Poi ho visto anche una bella foto dove c'è una di quelle delle cabine, diciamo dei bagni, con dentro due water dentro nella stessa cabina, che ricorda un po' un vecchio film di Woody Allen. Esatto, sì, un po' per farsi compagnia, un po' siccome in queste cabine ovviamente sono o per donne o per uomini, questa qui è per uomini con dentro due water. Non so se questa, diciamo, in Russia viene definita propaganda gay, sempre per rimanere in tema. Ma rimanendo sempre invece a Sochi, il nostro eroe direi che è Fuhea Semi, che è il primo atleta, l'unico atleta dell'isola di Tonga ai giochi invernali, è il primo della storia. In realtà, come ha fatto questo Fuhea Semi, che è la sua specialità è lo slittino, però non trovava i soldi per essere mandato a Sochi, e quindi lui ha pensato bene, diciamo, complice anche la principessa Salote Mafile Pilotevu, che mi perdonerà se sbaglio il suo nome, che è la sorella del re di Tonga, che ha avallato la sua richiesta. No, come non ce ne frega nulla? Nome, è la sorella del re, non so, a te non te ne frega niente. Io non vorrei trovarmi il re sotto casa che mi dice era mia sorella, quindi. E che comunque per riuscire a trovare i soldi, per riuscire a trovare uno sponsor, ha, diciamo, venduto il proprio nome, ha cambiato il proprio nome in Bruno Banani, che è il nome di un affermato brand di intimo tedesco, il quale in cambio di questa decisione a questo punto gli ha pagato le spese per andare a Sochi. E la prestazione, quindi, com'è andata? Non c'è la prestazione non straordinariamente, ma però il bello, diciamo, che la preoccupazione dello stesso comitato olimpico è stata: stiamoci attenti a queste cose, perché cosa potrebbe succedere? Cioè, fra un po', non so, Usain Bolt probabilmente verrà obbligato a cambiare nome in scarpe Puma, credo, immagino. E finisco con una dichiarazione del Monsignor Paolo Rigon, che è il vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Ligure, che all'inaugurazione dell'anno giudiziario ha dichiarato che il mammismo può essere causa di nullità del matrimonio. E mi sembra una notizia importante per chi ha delle mamme ingombranti, e ovviamente non sto parlando di mia mamma che ci ascolta, ma mi sembra interessante perché, ovvero, in quei casi in cui sono i genitori a decidere tutto per la coppia, quindi se devi cambiare un mobiletto della cucina in realtà poi decide tua mamma, questo può essere una motivazione per rendere il proprio matrimonio nullo. La cosa che mi chiedo è: la mamma non si cambia, quindi nel momento che io mi sposo poi riesco ad avere l'annullamento perché mia mamma, diciamo, è troppo presente nella nostra relazione di coppia, poi o non mi sposo più, oppure tutte le volte che mi sposo posso annullare questo matrimonio perché la mamma è sempre quella, oppure devo aspettare che la mamma vada in quel posto lì, che è tipo il paradiso. Devo aspettare, ho detto, non devo sperare. Può essere aspettare. Un bel alibi per annullare un matrimonio sgradito, insomma, uno c'ha la mamma invadente. Esattamente, cioè io posso praticamente sposarmi tutte le volte che voglio e tutte le volte posso tornare a sposarmi in chiesa perché mia mamma sicuramente prenderà delle decisioni per me e mio marito. Ma soprattutto questi qui del Tribunale Ecclesiastico di dove? Di Ligure, diciamo. Non ci avevano proprio niente da fare che preoccuparsi del mammismo, no? Beh, no? Insomma, sono è tra le varie motivazioni. No, ma tra l'altro è un po' la cosa che non sapevo leggendo poi questo articolo che è di Repubblica, è il fatto che c'è poca gente che va a chiedere l'annullamento del matrimonio, probabilmente perché si pensa che costi moltissimo. Invece costa 525 euro. Abbiamo dato anche una notizia. Va bene. Andiamo con gli ascoltatori. Cominciamo con Lina da Milano. Buongiorno, Lina. Buongiorno. Eccoci. Ascolti, qua. Io volevo intervenire sul posto dell'IGM. Sì. Banalmente volevo dire, se ci sono delle esperienze così già devastanti, così, o perlomeno così di esperienza vasta, come mai non si prendono questi lavori e si obbligano a tener conto di questi lavori anziché mettere a repentaglio territorio, soldi, piuttosto che risorse importanti, insomma? Bella domanda, Lina. E i vantaggi degli OGM sono evidenti, soprattutto in una fase iniziale, perché non si usano gli antiparassitari, ci sono meno parassiti, le coltivazioni hanno qualità e quantità migliori. Il problema è che dopo alcuni anni, molti anni, suggeriscono alcune esperienze, come ci ricordava Lirosi, per esempio a proposito dell'Argentina, ci sono delle difficoltà, quindi io credo sia anche questione di tempo di capire, oltre poi delle lobby in un senso o nell'altro che sono all'azione. Grazie Lina. Marcello dalla provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei in parte diciamo ha espresso quello che è il mio pensiero, no? Il tempo, ecco, io in merito alla questione OGM vorrei fare un salto indietro, sì, e ricordare che nell'immediato dopoguerra, quando c'era il problema dell'approvvigionamento per il cibo, è stata avviata dal 54 in poi una politica che obbligava, portava diciamo le aziende agricole ad arrivare ad un obiettivo che era di 100 quintali di mais per ogni ettaro coltivato. Per arrivare a questo obiettivo praticamente la pianura padana, il Friuli compreso, di cui io adesso la chiamo, ragione della quale io la chiamo, praticamente sono stati praticamente violentati da una politica che ha distrutto infatti quella che era un ecosistema. I campi sono stati innaffiati con abbondanti dosi di atrazina, veleni di ogni tipo. Bene, ora la fame diciamo per fortuna è stata vinta e con il nuovo millennio si sono affacciate queste nuove tecnologie di OGM. Benissimo, dobbiamo imparare a capire dal passato quelli che sono stati gli errori e cercare di non ripeterli in futuro. L'Argentina è evidentemente un esempio tangibile di quello che può portare la coltivazione OGM. Noi dobbiamo puntare alla qualità e alla tutela dei prodotti italiani, perché noi abbiamo dei patrimoni. Quella è la posizione, per esempio, del presidente del Veneto Zaia. Grazie Marcello. Ed è il contrario di quello che diceva invece il sindaco di Udine e il sindaco del comune in provincia di Udine, Pietro Drippi. Andiamo. Oh, mi raccomando, però c'è anche il personaggio della settimana, è un primo cittadino. Vi vogliamo sentire. Ricordare questo. Sergio dall'Aquila, buongiorno. Buongiorno signora Alessia, lei e gli ascoltatori. Volevo buongiorno solamente dire due parole. Sì. Monsanto Bhopal 1984, Monsanto OGM, la loro è semplicemente una universale speculazione. A chi vanno questi soldi? È tutto quello che devo dire. Praticamente i semi li vendono solamente loro e le loro agenzie. Sì, certo, ci sono degli interessi enormi. La Monsanto è una grandissima multinazionale. Solamente interessi. Sì. Il resto chimico e la genetica eccetera può avere anche, potrebbe avere anche dei fondamenti che non riesco a commentare. Mm. Se ha una risposta per me la ringrazio. No, e che figuriamoci la risposta. Abbiamo fatto parlare due persone che per motivi diversi avevano qualcosa da dire. Poi ognuno si fa l'opinione che crede. Grazie. Beh, però in realtà visto che mi sembra un punto diverso, il fatto di dire la chimica può anche, cioè gli OGM non sono di per sé sì, per forza, cioè adoperare la chimica non è detto che per forza sia un danno. Avere il monopolio dei semi e quindi decidere che cosa si può seminare e cosa non si può seminare è un problema maggiore, se ho capito bene. Sì, perché sì, sono sì, lo stupido del sì gruppo, io vorrei ricordare. È vero che soprattutto a livello europeo, ma ce lo confermava anche Lirosi, l'imprenditore, l'agricoltore siciliano, che all'inizio della sua avventura, quando ha seminato gli antichi grani siciliani che resistono ai parassiti in maniera naturale, quindi grano biologico, prodotti supernaturali, i suoi grani non erano più nemmeno iscritti alla lista di quelli ammessi dall'Unione Europea. Questo perché è un c'era problema. E questo è sbagliatissimo. Quindi, quantomeno, la soluzione di compromesso deve essere ognuno faccia quello che. I semi suoi. Però non impedite ai coltivatori biologici di farlo, per favore, perché sennò questo sarebbe davvero pazzesco. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arrivato il momento dell'angolo della petizione. Power to the people, Gavardini. Giusto, il tu potere. Hai mai firmato qualche petizione? Al popolo, sì, assolutamente, sì, assolutamente. Chi non ha firmato qualche petizione? Ma in continuazione, guarda. A volte perché il Teatro Valle è occupato tipo l'altro ieri. Ecco, tra l'altro hanno bocciato la nascita della fondazione per il Teatro esatto, Valle. Esatto, questo è il problema. Questa è una storia interessante. Ci torneremo, Teatro Valle, perché perché è una storia comunque dell'Italia di questi tempi. La petizione di cui vogliamo parlare oggi ha a che fare con il mondo della cultura, viene da Trapani ed è questa: non chiudete la biblioteca detta Fardelliana. I trapanesi si mobilitano per scongiurare la chiusura della biblioteca che racchiude la memoria storica della città. Abbiamo convocato Maria Pia Erice, presidente di Trapani Cambia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spieghi intanto l'oggetto della vostra petizione, la biblioteca di Trapani, perché poi ci dirà anche cosa contiene, perché è così per voi importante, perché sta chiudendo? Allora, la petizione nasce in seguito ad una mobilitazione che c'è stata da parte di moltissime associazioni e moltissimi cittadini che hanno sentito questa necessità di manifestare il loro sdegno per la possibile chiusura della Biblioteca Fardelliana. La Biblioteca Fardelliana è una biblioteca provinciale, sì, che ha 200 anni di vita e contiene all'interno più di 152.000 volumi. Pensate. Ma è anche molto bella, si trova nel cuore della città, sì, ed è simbolo di una città che non si arrende, perché lì potrete trovare ogni giorno studenti che studiano, ricercatori, persone che non smettono di... Qualche pensionato che legge il giornale, perché no? Ma qualche libro, sì. Sì, sì, ma assolutamente sì. Anche perché, essendo nel cuore della città, si trova anche di passaggio, non è difficile da raggiungere. Ma qual è il motivo che sta minacciando in questo momento la vostra biblioteca? La nostra biblioteca è minacciata dalla... sembra paradossale, ma il governo regionale decide di chiudere le province con un'operazione salva sprechi, ma il problema vero è che non sostituisce le province con altri enti immediatamente. Cioè voi dipendete la biblioteca Fardelliana dipende dalla provincia? Sì, la biblioteca in parte dipende dalla provincia, perché prende 210.000 euro dal comune di Trapani e 250.000 euro dalla provincia. Mancando il fondo della provincia, la biblioteca non può aprire, ma non può svolgere. Ma si tratta, comunque, ricordiamoci sempre che, avendo 17 lavoratori al proprio interno, questi 460.000 sì, euro che prende ogni anno praticamente garantiscono le spese vive, gli stipendi. Senta, però, sì, è chiaro questo, però dato che siamo, come diceva, ricordava lei, in tempi di spending review, è chiaro che bisogna stare attenti a non tagliare sbagliando, però poi la risposta che qualunque politico dà, anche se non direttamente a voi, perché non vogliono perdere i voti dei trapanesi, però insomma, è che i soldi non ci sono. I soldi non ci sono, il dibattito è sempre questo. Voi nella vostra petizione, o comunque nel vostro modo di sostenere questa biblioteca, riuscite anche a fare qualche proposta per risparmiare qualcosa? Cioè, è possibile che ci siano anche degli sprechi? Non lo so. Oppure proprio bisogna salvarla e continuare a garantire questi fondi? Perché 17 dipendenti, per esempio, sono tanti, non lo so. Non sono anzi sono pochi. Noi siamo sempre in continuo contatto con la direttrice della biblioteca, sono anche in difetto di organico. La questione è questa, sì, che quando c'è da risparmiare in questo paese, noi lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, perché nella nostra città, nel nostro territorio, non si tratta solo, il problema non è solo la biblioteca. Quando c'è da risparmiare, si risparmia sempre sulla cultura. In Sicilia questo è vero, questo purtroppo è vero. Sempre. Io sono suggestionato anche dall'aver visto ieri sera il film Monuments Men, la storia di questi americani che sono andati in mezzo alla guerra, seconda guerra mondiale, a salvare le opere d'arte, e la frase di Clooney, la frase culto, e dice: ma no, è importante morire anche per un quadro, perché noi in realtà combattiamo per i nostri valori. Questa sembra una sciocchezza, ma è così, no, quindi non si può tagliare su questo. No, ma soprattutto perché Italia e la cultura sono quelli che sembrano meno dannosi, perché sembra che non abbiano un immediato riscontro. Esatto. Se tagli un ospedale, improvvisamente subito muore qualcuno. Invece la cultura, in realtà con la cultura è uguale, solo che si muore 10 anni dopo, magari, perché esatto, nessuno legge esatto più i libri. No, ma per farvi una stima così anche approssimativa, in Sicilia i tagli ai beni culturali sono passati da 6 milioni e mezzo di euro del 2012 a 1 milione e 600 mila euro del 2013. Cioè, però è stata una vera e propria mannaia sulla cultura. Ma mi scusi, volevo fare una domanda. Nel momento che sì, salta la provincia, tutto ciò che la provincia, diciamo, dava, erogava come fondi, viene semplicemente annullato? Sì. Ah, quindi non solo per la Biblioteca Fardelliana? No, assolutamente no. Guardate che in Sicilia, lei ha citato un film in cui delle persone in piena guerra vanno a salvare dei monumenti. In Sicilia la cultura è in guerra. Considerate che stanno chiudendo fondazioni importantissime come la Fondazione Buttitta, la Fondazione P3, il sì. Teatro di Catania, tutti i teatri. Ma sempre per la questione dell'abolizione delle province o in generale per la spending review? Anche per altre ragioni. Per tagli e anche per l'abolizione delle province, perché la questione, il vero problema non è l'abolizione delle province, che può essere anche giustificata Sensato. Da uno spreco, ma assolutamente non è, questa non è una battaglia contro l'abolizione delle province. Volevo capire questo. No, quando si decide però di abbattere di chiudere un ente, bisogna usare un po' di razionalità, lei dice giustamente, per evitare che tutte le funzioni che c'erano prima vadano annullate o disperse, o magari si salvino le cose sbagliate. Però ci prometta una cosa, in questa petizione quante firme avete avuto per ora? No, siamo sulle 1700, ci tengo a ricordare che noi abbiamo lanciato immediatamente l'appello, questa mobilitazione generale, però la petizione se ne sta occupando un'altra associazione di Trapani, che si chiama Trapani del Futuro, sono molto giovani. Ma serve un numero? Serve arrivare a un certo numero o è semplicemente più ce n'è meglio è? Più ce n'è meglio è. Allora, l'impegno che vi chiedo di prendere, se volete, insomma, dopo che ci siamo sentiti, poi magari vedremo come va a finire questa storia, è quello di cercare di trovare una soluzione, magari anche temporanea, con qualche anche benefattore della città, qualcuno che dia una mano, provare a dare una risposta anche voi, oltre a sollevare giustamente, almeno secondo me, la questione di non chiudere questa biblioteca anche che ha 200 anni. Ha un nome bellissimo, a Trapani, tra l'altro. Se volete assumere questo impegno, se no, insomma, ci risentiremo comunque più avanti per vedere come è andata a finire. In realtà noi abbiamo già stiamo già lavorando alla costruzione di un grandissimo open day che si svolgerà all'interno della biblioteca. Terremo la biblioteca aperta tutta la notte fino al mattino e continueremo al mattino stesso del giorno dopo con delle lezioni con i professori per sensibilizzare, per dire che la biblioteca non è un fondo, solo un luogo dove si spendono dei soldi per permettere a qualcuno di studiare, è un luogo del quale bisogna avere cura. Va bene, grazie. Bello, grazie. Grazie Maria Piera Erice. Abbiamo un ascoltatore prima di chiudere, Pietro da Roma, buongiorno. Velocemente. Buongiorno. Sì, per il contest forse voleva rispondere. Il personaggio della settimana. Il personaggio della settimana secondo me è il sindaco di Genova Doria. Perché? Perché in questa settimana, qualche giorno fa, ho letto che ha emanato una direttiva interna per la spending review, cioè per raccomandando ai suoi dipendenti di spegnere le luci. Spendere un meno e di risparmiare. Grazie Piero, però non era Doria. Se lo sarebbe meritato Doria, per questa bella notizia. Io non l'avevo vista questa notizia, bisogna poi vedere sempre la sostanza di questi annunci, però non era Doria. 800 24 00 24 è un altro primo cittadino. Dopo Giornale Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, questi sono i Queens of Stone Age, è una band americana nata nel 1996, fulcro dello stoner rock, sai, lo sapevi che esisteva anche lo stoner rock? Assolutamente no, lo sai che sono ignorantissimo di musica. Del resto con un nome così, Queens of Stone Age. Ringraziamo Carlo Patassi, sì, che è colui che ha scelto la canzone che ce l'ha Little mandata. Sister, perché... una canzone d'amore, fondamentalmente la vostra canzone, il vostro si può fare, ve lo chiediamo. Anche in musica, ve lo chiediamo ogni volta e così faremo la colonna sonora di Si può fare. Intanto ci sono un po' di commenti. Per esempio, un ascoltatore al 349-238-6666 ci scrive: perché i siciliani non si domandano se non sarebbe più utile dirottare sulla cultura parte degli immorali emolumenti dei loro amministratori? Ci scrive Rose. Però è una cosa che si chiedono tutti. Con i propri, diciamo, immorali emolumenti dei propri amministratori. Non è che Sicilia siano più immorali quelli di Sicilia. Ci vanno giù pesanti. In Sicilia ci vanno giù abbastanza pesanti. Di scandali ce ne sono una settimana, tutti piuttosto grossi. Non è che in Lombardia, diciamo, sorridiamo, ecco. No, la petizione questa volta era per non chiudere la biblioteca di Trapani Fardegliana. Scusa, mi piace molto questo nome, perché ho scoperto che si chiama Fardegliana perché è stata fondata dal nobile trapanese Giovan Battista Fardella, che però era il ministro della guerra del Regno delle Due Sicilie. Ed è una biblioteca che ha 200 anni. Sono uno stagista, ma sto imparando, insomma. Lentamente ho imparato ad aprire Wikipedia. Andiamo con gli ascoltatori. Antonino da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo rispondere per il personaggio della settimana. Sì, chi è secondo lei? Secondo me è il sindaco Renzi. Perché? La notizia la notizia è nota in tutta Italia. Cioè, ma ce la dica, perché ce n'hai talmente tante in questo momento su Renzi. Perché lui appunto si è proposto. Al suo partito nella direzione. Mi piace, si è proposto, me lo segno. Esatto. Si è proposto. Lei ha trovato un modo elegante e comunque diretto per dire che ha fatto fuori Letta. Per riassumere, direi quello che sta succedendo in tutto il paese. Si è proposto. Si può dire anche diversamente, però. Noi lo prendiamo così: si è proposto. Caro Antonino, però non era Renzi, grazie comunque per aver partecipato. Non era Renzi, forse era troppo facile. Renzi. Buona domenica, comunque. Sì. Sì, non ho capito, non abbiamo altri ascoltatori, no, perché non si riescono a raggiungere. Vabbè, allora, adesso mi racconti una barzelletta. Ma molto volentieri, molto molto volentieri. Niente, allora sai che facciamo? Andiamo a raccontare la prossima storia che viene dall'università. No, c'avevi la barzelletta veramente? No, ma figurati, mi hai guardato come dire, proprio adesso mi interrompi. Faccio lo stagista di giornalismo, non mi preparo le barzellette. Le barzellette le ho usate tutte stanotte, poi le dimentico, diciamo, più o meno intorno a mezzanotte. Andiamo a raccontare un caso d'eccellenza, veramente, che viene dall'università di Firenze e che ci fa ben sperare per quanto riguarda la prevenzione delle frane e delle alluvioni. Ci siamo? Non ci siamo. Allora, ci sono un inglese, un tedesco e un francese. Partiamo con la musica, dai. No, oggi non so, c'è un blackout in regia totale. È perché piovigina a Milano, non siamo abituati. Quasi nevica in questo momento. Ce l'abbiamo, partiamo, via. Per prevedere le frane, l'Università di Firenze ha messo a punto un sistema già testato dalla Protezione Civile che fa proprio questo, cioè previene le frane. Sembra incredibile, ma previene, perché non si possono eliminare, però le prevede, giusto, hai fatto bene a puntualizzare. Noi abbiamo convocato il professor Nicola Casagli, buongiorno. Buongiorno. Del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. I titoli di giornale erano troppo promettenti oppure davvero quello a cui state lavorando voi col vostro team di ricercatori è una cosa notevole e quasi rivoluzionaria, professore? I titoli sono un po' troppo promettenti, il contenuto dell'articolo degli articoli che sono usciti sono più corretti. Sì. Previsione è possibile in certe situazioni, laddove ci sono strumenti a terra che permettono di fare monitoraggio. Avendo dati di monitoraggio è possibile fare anche previsioni molto accurate. Il sistema che è stato descritto dalla stampa riguarda invece un modello a scala nazionale che permette di individuare aree critiche per le frane, sulle quali poi magari concentrare le attività di monitoraggio per fare previsione. Cioè voi avete messo su un cervellone che monitora i dati, quando questi dati ci sono e arrivano dai luoghi sensibili, cioè proprio nei punti dove si sa che ci passano i fiumi, ci sono possibili frane, avvallamenti, eccetera. Se da questo posto vi arrivano dei dati in tempo reale, voi col vostro cervellone riuscite a prevedere quello che può succedere. Ed è già successa tra l'altro questa cosa una volta? Sì. Il sistema si compone sostanzialmente di tre moduli. Un primo modulo a scala nazionale che, usando previsioni meteorologiche e dati raccolti dalle serie storiche di pioggia su aree vaste nel territorio nazionale, circa un centinaio, individua delle soglie. Il secondo modulo invece raccoglie ed aggrega tutte le notizie che escono sulla stampa, sulla televisione, di fenomeni già avvenuti, li georeferenzia, quindi gli dà una coordinata spaziale, e in questa maniera è possibile affinare le soglie. Il terzo modulo invece riguarda la gestione di dati di monitoraggio con dei radar che noi posizioniamo a terra davanti alle zone più critiche, ai cosiddetti sorvegliati speciali, e in questo caso, ma solo in quest'ultimo caso, è possibile fare previsioni molto accurate. Certo, perché ci sono movimenti anche microscopici che lasciano presagire quello che potrà succedere. Ma quindi bisogna già sapere prima se c'è una zona che è a rischio frana, bisogna andare lì, infilare dei sensori nella terra. Mi scusi, sono lo stupido dei due. Certo. Era per capire. È così, esattamente come ha detto. La cosa che pochi sanno è che le aree a rischio sul territorio italiano sono già praticamente tutte note, perché già dal 2000 le regioni, le autorità di bacino hanno prodotto la cartografia nazionale delle aree a rischio idrogeologico. Quindi lei dice, insomma, conoscendo già le aree a rischio, basta metterci questi sensori, insomma, basta. Probabilmente non è così semplice, però è con un sistema come il vostro. Adesso ci racconterà anche come è andata nel caso dell'Isola d'Elba, dove siete riusciti effettivamente ad arrivare un attimo prima che qualcosa succedesse. Traffico. Strade in diretta. Incidente in Liguria, chiusa la statale 1, la via Aurelia, nell'Imperiese tra Grimaldi e Mortola, siamo quasi al confine con la Francia. Permane la chiusura per frana dell'Aurelia in Liguria tra Laigueglia e Andora. Chiusa per lavori invece la statale 309 Romea in Veneto tra Marghera e Mestre Ovest. Le carreggiate qui torneranno percorribili per le 18. Noi torniamo tra mezz'ora. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E come abbiamo sentito dagli aggiornamenti, c'è una strada chiusa per frana. Per frana, quindi vedete che è proprio. Siete stati voi di Firenze che avete detto di chiudere questa strada? No. In questo caso no. Cosa è successo invece all'Isola d'Elba qualche tempo fa? All'Isola d'Elba stiamo seguendo da circa un anno una zona in cui si verificano degli sprofondamenti del suolo, quindi delle frane in zona di pianura. Abbiamo installato appunto uno di questi radar con trasmissione dei dati in tempo reale. Il 27 gennaio abbiamo osservato una lievissima anomalia, l'abbiamo segnalata al gestore, il gestore ha trasformato la strada. Il giorno dopo si è verificato un piccolo avvallamento e poi, facendo un saggio con un escavatore, si è visto che sotto c'era già un vuoto, si stava formando una voragine. Beh, lei fa così, lo dice così timidamente, senza attribuirsi grosse responsabilità, però a me sembra una cosa potenzialmente straordinaria il lavoro che state facendo. Da un punto di vista tecnico e scientifico è straordinaria, perché è la prima volta al mondo che viene prevista uno sprofondamento in zona di pianura con una settimana di anticipo. Ecco, quindi è una notizia stupenda, perché ci dà la notizia come se invece fosse prassi, o anzi quasi una cosa un po' tristina. Dice: no, è la prima volta al mondo che è stata prevista una frana. E il merito è suo, anche suo. complimenti. Ma le volevo chiedere una cosa, perché prima, quando spiegava dell'algoritmo, mi sembra il secondo modulo, che diceva c'è c'è una raccolta dati di, attraverso la stampa, la televisione, cioè tutte le notizie che vengono date diciamo confluiscono nel cervellone e quindi escono le zone a rischio, se ho capito bene? Sì, cioè, ripeto, le zone a rischio sono già conosciute, sono già mappate, identificate dalle pubbliche amministrazioni. Ogni giorno, anzi ogni 15 minuti, noi treniamo da tutto il web le notizie che riguardano le frane sul territorio italiano, le localizziamo, cioè le mettiamo, le assegniamo alla località in cui sono verificate, analizzando il testo della notizia, valutiamo anche la gravità in base al testo della notizia. E anche la veridicità, perché su internet si trova di tutto, voglio dire. Nel senso che se io twitto frana a Monza, questa notizia entra nel vostro cervellone? Entra, ma con una lievissima importanza, quindi viene scartata dal sistema. Perché io non valgo niente, perché giustamente. Ha ragione, giusto. Ci però mancherebbe è interessante altro. Anche questa modalità di mappare il web e sfruttare così tutto quello che in autonomia viene prodotto a livello di notizie, capite che mole di dati, esatto. Oltre alle, però mi sembra che la parte importante sarebbe, professore, poter monitorare le zone più rischiose, insomma avere proprio dei sensori, cioè delle sonde che poi trasmettono non so in che modo. Su questo a che punto della faccenda stiamo? L'Italia è il paese all'avanguardia nel mondo sul monitoraggio di frane e dissesti. Il problema è che bisognerebbe investirci in questo tipo di attività, perché le aree a rischio, come le ho detto, sono note, ma sono tante, sono oltre 54.000 su tutto il territorio nazionale, cioè zone che sono ad altissimo rischio di frana o anche di alluvione. 54.000? Sì. Spassionatamente, così, visto che siamo in attesa di nascita del nuovo governo, forse ci sarà aspettativa anche nel vostro mondo per il ministro dell'ambiente. Come avete valutato il lavoro di fatto da Orlando fino ad ora, per esempio su questo fronte? Ci avete mai parlato? Avete mai ricevuto una lira? No, purtroppo sono gli atti che contano, cioè il governo ha fatto precedente, ma anche quello di prima, ormai da diversi anni, ha tagliato, fanno grandissime dichiarazioni sulla necessità di mettere in sicurezza il paese, ma sulla finanziaria l'anno scorso per tutta Italia erano stanziati 30 milioni di euro, poco più di un milione di euro. Però Orlando è andato in giro dicendo che quest'anno c'erano più fondi per risistemare il territorio, per questo, o anche per la prevenzione, adesso non ricordo i capitoli, lei non risulta al momento? Come dichiarazioni, certo, Orlando. Bisogna poi vedere se si traducono in pratica, perché il problema è finanziario. Di solito si fanno grandi dichiarazioni intorno all'anniversario del Vajont e poi dopo però i soldi non arrivano. Semplicemente quando c'è qualche frana, qualche alluvione. Certo. L'anno scorso è stato il 50° anniversario della più grande tragedia del mondo in rischio idrogeologico, il Vajont, e appunto il governo ha stanziato una cifra ridicola per la difesa del suolo. Ma il Vajont è una delle motivazioni, diciamo, visto che è una tragedia che ricordiamo tutti, è una delle motivazioni per cui adesso l'Italia è all'avanguardia nella ricerca di frane? Senz'altro, il Vajont ha contribuito a... Cioè le grandi catastrofi hanno, per così dire, un piccolo effetto positivo, che è quello nel generare attenzione, progresso tecnico, scientifico, di conoscenza. Soprattutto il Vajont e l'alluvione di Firenze, secondo me, hanno segnato una svolta nel nostro paese nell'attenzione su questo tipo di fenomeni della comunità scientifica. E il Vajont sarebbe andato in un altro modo, perché in realtà di tutta la storia del Vajont, siccome la conosco abbastanza bene, avendo lavorato con Marco Paolini, in realtà lì si era prevista quella frana e comunque molte cose non si sono fatte. Chiedo se invece con questo algoritmo si sarebbero fatte, diciamo. Mi scusi. Adesso non solo con questo algoritmo, ma con l'esperienza che i geologi, gli ingegneri hanno oggi, non sarebbe ripetibile un disastro come il Vajont. Allora, diciamo, chi doveva dare degli allerta e che li aveva dati non è stato ascoltato oggi, probabilmente grazie agli strumenti, ma grazie anche a tutto quello che è successo, probabilmente riceverebbe maggiore ascolto a chi poi deve prendere le decisioni, che non sono i ricercatori geologi, ma sono per l'appunto i politici, e si casca sempre lì. Professore, però è una buona notizia, ci ha detto che oggi non avverrebbe il Vajont, anche questo mi sembra una buona notizia. Poi lei c'ha questa cosa di grandissimo understatement, e quindi ce le dà piano le notizie, però mi sembra un'ottima notizia. Però questo è un filone da seguire e noi le facciamo ancora i nostri complimenti a lei e al suo team. Quanti ricercatori siete? Con me lavorano 50 giovani ricercatori precari. Precari, ha detto subito. Sentito, giusto, lui è molto giusto. Timidamente, però, intanto le parole. Pac! Tutti vorrei precari. Vorrei che fosse il mio capo, lei. Tutti precari, scusi. tutti precari, perché con la nuova legge di riforma università i ricercatori sono solo precari nel nostro paese. Poi occupandosi di cose scivolose e frane, forse bisogna essere precari. Mi scusi, faccio lo stupido, ma capisco il problema. No, è vero. Grazie, complimenti, professor Casali. Grazie, grazie mille, arrivederci. Di Firenze. Avete sentito la storia incredibile, dunque, attesa anche questa volta per il nuovo ministro dell'ambiente. Speriamo che, come dire, ci dobbiamo credere. Sì, speriamoci che. Ma ci sono già dei papabili? Seguano i fatti. Orlando pare che sia confermato. Ah, confermato. Sarebbe confermato, uno dei pochi confermati. In effetti, su alcune cose, secondo anche chi segue i temi ambientali, ha lavorato bene, però sulla questione poi dei fondi bisogna andare a bussare alla porta del ministro dell'economia. E poi ci ha promesso che studia, giusto? Ci ha promesso che studia, quindi magari siamo noi che lo facciamo riconfermare, secondo me. Un investimento sul futuro, a puntare su Orlando. Siamo molto tranquilli perché volevamo richiamarlo per verificare se avesse studiato o meno, avevamo paura che non fosse più ministro, quindi speriamo che lo riconfermino. Vediamo. Aldo da Milano, buongiorno, riprendiamo con gli ascoltatori. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Sì. Niente, ho sentito stamattina che parlavate di OGM, sì. E visto che sono stato responsabile scientifico dei negoziati sul trasferimenti transfrontalieri degli OGM, era il protocollo di Cartagena, vi ho chiamati. Lei è stato responsabile scientifico di che cosa, scusi? Dei negoziati che hanno portato al protocollo di Cartagena. Quello sui movimenti transfrontalieri degli OGM. E cosa la sua esperienza? Cioè, ci vuole parlare della sua esperienza? Ci racconti. Ecco, la mia esperienza è questa. Intanto le polemiche che ci sono ora, in realtà, scientificamente parlando, tossicologicamente parlando, riguardano l'uso di diserbanti più che di OGM. Sì, certo. Sono diserbanti che vengono usati in associazione, non in associazione con gli OGM. Quindi non è che se si eliminano gli OGM quei diserbanti non vengono più usati. Mentre danni diretti da OGM non se ne sono visti. Però noi abbiamo raccontato, non so se hai sentito, anche la storia di un agricoltore siciliano che non usa né OGM né diserbanti e produce un grano biologico con vecchie sementi che reagiscono bene ai parassiti, e questo era anche un'altra via, no, da seguire, si può fare anche questo. Ma, senta, noi stiamo parlando di un'agricoltura che deve sfamare il mondo, non che deve... non che non debba, ma sì, ma questa storia dell'agricoltura che sfama il mondo con il numero deve... mi scusi, con la storia dell'agricoltura che sfama il mondo, con il numero di morti per fame che non accenna a diminuire, a me sembra un po' una barzelletta, o no? Quella del... cioè noi sfamiamo il mondo già ricco, mi pare, con cioè con... cerchiamo di sfamare il mondo, però in realtà questa questione degli OGM diventa in realtà un monopolio delle sementi e crea semplicemente un monopolio delle sementi nella misura in cui viene reso praticamente impossibile realizzarli da società medio piccole. L'Italia era molto attrezzata per realizzare sementi OGM anche sicure, ma di fatto una serie di leggi che hanno reso la realizzazione di OGM difficile quanto quella di un farmaco ha fatto sì che... No, ma la mia domanda, mi scusi, visto che lei è un tecnico della materia, gli OGM servono per diminuire la fame nel mondo? Perché non mi sembra che la FAO al riguardo ci dia delle notizie rassicuranti. Non esistono tecnologie che servono a diminuire la fame del mondo. E allora però... La fame del mondo dipende da motivi socio-economici, certo, e di vario tipo. E allora possiamo usare i semi sani? Usate in un certo modo. Di sicuro gli OGM consentono una produzione maggiore con minori costi. Va bene, questo è il punto di partenza. Eccetera. Infatti, pregiudizialmente, almeno io non sono contrario. Grazie Aldo, buona giornata. Buona giornata. Massimo da Parma, buongiorno. Sei impaurito, Massimo? No. Pensavo che si fosse ritirato. Pensavo che non fosse di Parma, che si era offeso a parola Parma. Prego. No, avevo il telefono appoggiato. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo partecipare al contest. Sì, ottimo. Il nostro sindaco, che in questa settimana ha deciso di tagliare un pochino quelle che erano le abitudini dei dipendenti comunali, cioè vuole dire che non possono più andare a prendersi il caffè. No, parliamo di Pizzarotti? Sì. Esattamente, Pizzarotti. Lo nominiamo. Non possono più andare a prendere il caffè i dipendenti, perché? perché no, non possono andare a prendere il caffè, ma non possono più uscire per prendersi il caffè, lo devono prendere all'interno degli edifici comunali. Questo in virtù di un'ordinanza del sindaco? Dei nuovi regolamenti, perché in realtà in tutti i comuni sono usciti tutti i nuovi regolamenti, di cui volevo anche parlare, ma parlerò la settimana prossima, perché non possono nemmeno usare Facebook, Twitter. Esatto, non potranno usare il telefono. Va bene, la notizia è interessante, però la risposta non era Pizzarotti. Grazie Massimo. Grazie mille. È un altro primo cittadino, vogliamo dare anche un altro indizio, lo diamo in chiusura di questo blocco. Grazie da Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti. Eccoci. Buongiorno. Io volevo parlare a proposito del dissesto idrogeologico della Liguria, io parlo dal Tiguglio. E purtroppo non ci sono solamente gli eventi che sono balzati all'onore della cronaca, ma ci sono anche delle frane che sono tipo nel comune di Né, che è un comune alle spalle del Tiguglio, dove c'è una frana in atto conosciuta perché c'è una carta geomorfologica della Valle Gravegna, dove c'è appunto il comune di Né, e già dagli anni 70 è stata fatta questi studi e non ha fatto niente nessuno. C'è un paese, due paesi che stanno muovendosi da est verso ovest e nessuno fa nulla. Beh, ma probabilmente sono monitorate queste frane. No. Nel senso che prima parlavamo con Nicola Casagli, che ci ha detto che le frane monitorate sono 54.000 e lei dice che questa è fuori dalle 54.000. No. Forse la signora non è al corrente. Cioè, è chiaro quello che sta dicendo lei. Dice che non è problema solo di prevedere o monitorare le frane, ma di intervenire, per esempio, nel caso che ci raccontava lei, di una zona dove si sa che c'è un continuo movimento del terreno. Lei dice che bisognerebbe intervenire per fare cosa? Per sgomberare tutto. Si sgombera. Tempo era monitorata, sembrava dal satellite, poi dopo non ci sono. No, ma secondo lei cosa bisognerebbe fare in quella zona lì? Ma secondo me bisognerebbe prima di tutto monitorarla, perché io ho un po' morto. E questo abbiamo detto acque. Che probabilmente sarà monitorata, ma una volta che si accerta quello che lei sta dicendo, cioè che il movimento c'è ed è continuo, cosa bisognerebbe fare? Evacuare tutti? Ma probabilmente devono fare degli interventi, insomma, lei dice. Degli interventi, ecco, tipo carottaggi, tipo cose del genere che vengono fatti dagli esperti, naturalmente. Grazie, noi non conosciamo questa zona, però in teoria, per quello che ci ha appena spiegato il geologo Nicola Casagli, già il fatto che noi adesso ne stiamo parlando in radio, e se la signora decide di scriverlo su internet oppure di alcuni giornali, di parlare di questa frana, questa notizia entrerà nel cervellone che c'è all'Università di Firenze e molto probabilmente questa frana verrà monitorata, se non lo è già, perché onestamente se è una zona che addirittura lei ci dice che è a vista d'occhio, però, si vedono dei paesi che scivolano, ho la sensazione che sarà monitorata. Però io non lo so, ovviamente. Secondo me, anche se la signora magari non si è espressa benissimo, il suo ragionamento era che ci sono zone dove si sa già che ci sono rischi di frana, eccetera, e ci sono anche dei movimenti continui che non vanno neanche preveduti, perché ci sono previsti, ma dove non si interviene per migliorare la situazione. E questo è un altro problema. Il grande problema, che credo, poi ripeto che sono io lo stupido, ma quando c'è una frana, cioè o evacui la zona oppure dici la evacuiamo nel momento in cui sta venendo giù tutto, perché non è che metti dei chiodini e tieni sulla frana. Però qualche intervento ogni tanto dovresti farlo, perché prima o poi un colpetto alla frana, come succede più grosso, arriva e succede il casino. Va bene, adesso diamo un altro indizio, però, per il personaggio della settimana. Allarghiamo le maglie. Vado io? Vai. È il nostro primo primo cittadino è di origini italo-tedesche. Perfetto. Così. È di origini italo-tedesche. Qua ci siamo avvicinati un bel po', 800 24 00 24. E non è Innerhofer, possiamo dirlo? Ah, mi è bruciata la risposta più bella. A tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have butter scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesdays he goes shopping. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I Non potevamo introdurla meglio la prossima notizia, che con questo coro dei boscaioli tratto da un film dei Monty Python. Lecco, il boom per il corso di boscaioli, anche 11 donne tra i 400 che vogliono iscriversi. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente della provincia di Lecco, Carlo Signorelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, i fatti sono questi, i fatti sono noti. Voi avete aperto un corso per boscaioli. Intanto, perché avete aperto questa possibilità di questo corso? Ma il nostro assessorato all'ambiente promuove una serie di attività anche di tipo informativo ed educativo, sì, per i cittadini, per gli addetti ai lavori. Ci sono molti boschi in provincia di Lecco? Ci sono molti boschi, soprattutto nella parte nord della provincia di Lecco. E poi, siccome noi introitiamo ogni anno una certa quota di sanzioni legate proprio alle infrazioni, abbiamo il dovere di legge di reinvestire questi introiti in, sì, sanzioni, in iniziative che in qualche modo tutelino l'ambiente. Quindi quest'anno la scelta è stata patrocinare e finanziare un'iniziativa, diciamo così, un po' istruttiva per chi nei boschi ci va e li cura. Ci va o ci vuole andare. Allora, intanto vi immaginavate di avere tutte queste richieste, perché sono più del doppio, 180 posti, 400 richieste. No, ci ha assolutamente stupito sia il numero d'adesione, sia anche l'interesse che ha suscitato, non solo sul piano ambientale, ma anche un po' sul piano così sociologico, questo, sì, tipo di iniziativa che abbiamo inaugurato ieri mattina presso la comunità montana della Valsassina, e che ha visto in pratica quasi tutti gli iscritti partecipare. Questo è un bel segnale. Si dice questo ritorno di interesse per la legna perché è un modo per risparmiare in tempo di crisi, per esempio in inverno per riscaldarsi. Si dice la riscoperta della natura. Dal vostro punto di vista è un'iniziativa per la cura e la manutenzione del territorio, che fa sicuramente bene al territorio. Ne abbiamo appena parlato per quanto riguarda rischio frane, rischio tutto quello che volete. Lei che idea si è fatto da questa, diciamo, fotografia che avete scattato con queste richieste più del previsto per questo corso da boscaioli? Poi ci dice anche che cosa insegnate magari. Sì, ma io mi sono fatto l'idea che ci sono tante persone che desiderano tutelare l'ambiente non solo a parole ma anche coi fatti. Curare un bosco significa prevenire dissesti idrogeologici, e ne avete parlato prima, sentivo l'inserto di qualche minuto fa. Significa amare il territorio e permettere a diverse persone di passeggiare tra i boschi in condizioni di sicurezza. E questo è un primo aspetto, direi l'aspetto più tradizionale. Oltretutto dalle nostre parti c'è una lunga tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Però la nostra sensazione è che ci sia qualcosa in più in questo momento, e che qualcuno, vedendo anche un po' l'età dei partecipanti, è un bello spaccato. Com'è l'età? Non sono pensionati, sono giovani? Sono quasi tutti in età lavorativa, quindi la nostra sensazione è che dagli appezzamenti dei terreni che qualcuno magari ha ereditato, sì, si voglia anche trarre, unire l'utile al dilettevole, perché insomma legna ha un mercato, certo, no? Beh, ma anche perché in questo paese si va in pensione a 97 anni, quindi è difficile dopo la pensione decidere di fare il boscaiolo. Il nostro, bisogna pensarci per tempo. A dire il vero, abbiamo dovuto escludere 10 minorenni per problemi assicurativi, sì, avevamo anche 10 domande di minorenni, e il più anziano di Lecco è a 79 anni, quindi un bel range molto bello di età, con le 11 donne che avete detto, con quasi tutti i comuni della zona nord della provincia, sì, di Lecco. Ma dopo fatto il corso uno può andare nel bosco e tagliare qualunque albero? Cioè, quella cosa che mi chiedo è com'è che si decide quali alberi si possono tagliare e quali no? Cioè, li decide un ente o li decide il singolo, guardi, boscaiolo? Guardi, innanzitutto un piccolo aneddoto. L'interesse che ha suscitato questo corso ha fatto sì che in alcuni bar della Valsassina fosse girata la voce che senza andare a questo corso non si poteva più andare nel bosco a fare niente. Beh, ecco, è un'ottima campagna di marketing questa. Sì. O fai il corso o non vai nel bosco. Ecco, in realtà questo corso insegna anzitutto così delle nozioni tecniche, soprattutto in riferimento alle operazioni di sicurezza, perché usare certi strumenti come la motosega può essere molto pericoloso e quindi... Cari ascoltatori, non vi improvvisate, fate prima i corsi. Poi... Assolutamente sì, è pericoloso per se stessi e per gli altri, quindi indicazioni, cautele, eccetera. Poi c'è una parte normativa che deve essere conosciuta, che purtroppo, come in Italia molte volte succede, è una normativa mutevole, non sempre chiara. E che risponde alla domanda di Gabardini, forse, cosa posso andare a tagliare e cosa no? Allora, vi sono dei permessi da chiedere per quanto riguarda le iniziative, voglio dire, di tagli sostanziali. E vi sono poi delle ordinanze che i sindaci fanno quando ci sono dei pericoli, ossia alberi che possono costituire un pericolo. Però in linea di massima, per quanto riguarda gli alberi d'alto fusto, occorre avere i prescritti permessi. Non a caso una parte del corso è dedicato alle norme e gli aspetti autorizzativi. Io voglio tagliare un determinato albero e chiedo un permesso, a parte che non saprei neanche come diciamo indicare quell'albero. Sono andato nel bosco, ignorante di natura, il 17° albero a sinistra, vorrei tagliare quello. È così che funziona? Allora, se è un fatto puntuale, e cioè se c'è un pericolo imminente, ripeto, il responsabile è il sindaco, e quindi si chiede al comune e quindi al sindaco di fare un'ordinanza specifica per una o determinate piante che costituiscono un pericolo. No, ma questo è chiaro se c'è del pericolo, ma io mi chiedo, io voglio fare della legna perché voglio accendere il camino. Si indica il numero del mappale. Senta, ma un'altra cosa, mi scusi, il numero del mappale è una risposta specifica. Poi, molto difficile. Ma più che altro... Teniamo conto che di solito uno va nei boschi, nei terreni di proprietà. Quindi ecco, uno... e questa è la domanda che le volevo fare. Quando noi andiamo in giro per strada, nelle campagne, per esempio in provincia di Lecco, vediamo i boschi, dobbiamo pensare che sono boschi privati, quasi tutti fanno parte di appezzamenti privati o sono più pubblici? No, sono quasi tutti privati. Naturalmente in alcuni casi i comuni sono proprietari di alcuni appezzamenti di terreno, però ciascuna parte è appartiene a un proprietario. Ecco, quindi il proprietario ovviamente può tagliare all'interno del suo bosco, può tagliare, ecco, non dico quello che vuole perché ci sarà sicuramente anche lì qualche regolamento, però può tagliare, può dare magari la facoltà a un altro di andare a tagliare sul suo bosco, purché lui lo sappia, credo, anche questo. Assolutamente sì. E invece per quanto riguarda i terreni pubblici? Guardi, questo costituisce un problema per i comuni, che spesso affidano a dei consorzi. Bravo. Perché non hanno le capacità di farlo, poterseli gestire. Quindi le amministrazioni comunali, a parte le situazioni dove ci sono dei parchi ad uso pubblico, è chiaro che se il comune ha dei boschi e dei terreni in proprietà deve fare la manutenzione. E quindi di solito questa manutenzione viene fatta con degli appalti, e quindi dovrebbero essere i terreni più curati quelli in carico alle amministrazioni comunali. Però visto le crisi, le amministrazioni comunali tendono a disfarsene o ad affidarle a dei consorzi che fanno tutto il lavoro, eventualmente portando dei benefici che a volte ci sono e a volte no, perché non è così redditizio poter sfruttare un bosco se dobbiamo pagare anche chi lo fa. Invece se lo fa il però il vantaggio è che si tiene pulito il bosco, e questo è un vantaggio anche per il comune, anche se poi o per la provincia non ci guadagna direttamente. Va bene, insomma, complimenti per l'iniziativa che è andata a buon fine, e grazie all'assessore di Lecco Signorelli, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Dalla domenica. Bello andare a fare legna prima o poi una volta. No, ero curioso perché siccome sono tutti privati, diceva, io posso andare lì e prendermi dei rami e portarmeli a casa, posso prendermi degli alberi. Devi chiedere qualche autorizzazione, qualche permesso al privato, però la proprietà privata ti devo fare il corso, chiedere il permesso, andare diventa molto difficile. No, ma sono spesso molti proprietari dei boschi che fanno il corso, perché sapendo di avere dei terreni che prima magari erano incolti, si occupano adesso del proprio bosco. Sì, faccio legna, la uso per riscaldare, magari la vendo anche e tiro su quei 300-400 euro, 1000 euro a seconda della grandezza del bosco. Va bene, facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra poco, cercheremo di svelare anche il personaggio della settimana per il quale si vincono oggi i biglietti della mostra Aesthesis a Varese. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo con un po' di ascoltatori e cominciamo da Hermes che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, riguardo al crollo delle montagne. Sì. Quando io facevo l'istituto tecnico per giovani, scrivevamo l'ingegner Bianchi. Ingegner Bianchi? Sì, che era un ingegnere di costruzioni. Sì. Ci spiegava. Sì. Che per sostenere le montagne bisognava fare come gli Inca, cioè come la civiltà antica, si fanno delle terrazze. Allora, facendo delle terrazze con dei muri di spinta e con gli scarichi, la montagna non crolla più, perché io ho visto anche l'ultimo crollo che c'è stato un mese fa della, sì, montagna, che è caduta, che ha sfiorato una casa, lì è proprio liscia. Sì. Praticamente però vanno è faticoso fare le terrazze, no, credo che si, nei posti dove terribile si possono fare si fanno, tipo in Liguria si fanno moltissimo. Poi anche la manutenzione di queste terrazze è solo questione di costi. Sì, sì. Ah. Perché se lei fa queste terrazze, no, ma non terrazze grandi, né? Terrazze che sono da 2 metri, 2,5 metri, come, certo, facevano una volta, che stavano sì, sì, non è che non mi immaginavo delle terrazze con degli ombrelloni, no, e degli grosse, aperitivi. Non grosse, però tiene la montagna, la tiene, perché ci sono anche gli scarichi. Va bene, no, Hermes, grazie per questo contributo. È vero, infatti nelle zone collinari spesso vediamo queste terrazze. Assolutamente, però perché anche per la coltivazione soprattutto. Eh sì, perché ti consente di avere, esatto, il terreno in orizzontale. Non credo che però su certe però montagne c'è una manutenzione fare grossa, perché terrazze vanno fatte, vanno mantenute, perché sennò poi per qualche motivo si seccano insomma le costruzioni. Poi c'è tutto un discorso di drenaggio d'acqua. Poi vanno arredate con dei divanetti, le terrazze, esatto, e degli ombrelloni e degli ombrellini dentro di cocktail. Perché se no fanno anche le terrazze, esatto, insomma, la sostanza è questo. Che poi è quello che è successo ad Andorra, dove c'è ancora il treno che stanno levando adesso, dove c'è stata quella frana. È franata una terrazza, però, esatto, non era una terrazza come quella che intendeva l'ascoltatore. Però era una terrazza vera. Terrazza. Era un parcheggio, sì, più che una terrazza. Andiamo con Irma che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, telefono per il personaggio, sì, della settimana. Chi è? Ma io ho pensato al sindaco di Udine, Furio Ossel. Perché? Perché ho pensato a lui, ma l'idea mi è, sì, venuta quando lei ha detto che è di origine italo-tedesco. Ma la notizia, diciamo, della settimana quale sarebbe relativamente a Ossel? C'era stato qualcosa? Questo, a dire questo, il vero, mi sfugge. Mancava questo elemento. Va bene, lei dice qualcosa avrà pur fatto. Avrà pur fatto anche il sindaco di Udine in una settimana per guadagnarsi lo stipendio. Grazie, Irma. Non era però Furio Ossel. Grazie. Andiamo con Maria che chiama da Vicenza. Maria che chiama da Vicenza, non so se c'è. Sì, sì, ci sono. Eccola, buongiorno. Buongiorno. Forse non lo so, perché non so se l'origine è italo-tedesca. Sì. Io avevo pensato al sindaco di New York, perché aveva parlato di fare un censimento dei senzatetto. Brava. Brava Maria, ecco gli applausi. Complimenti, complimenti. Sì, ha detto tante cose questa settimana il sindaco di New York. Ha detto che vuole alzare lo stipendio minimo dei dipendenti del comune, di quelli che lavorano col comune, che vuole dimezzare il numero di vittime per gli incidenti stradali a New York, e anche quello che diceva lei per quanto riguarda il senza tetto. Grazie. Devo dire che in un momento di spending review, quando sentiamo tagli, un sindaco che dice io vorrei aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Dopo le elezioni lo dice, tra l'altro, non prima, è straordinario. È un altro mondo. Ha vinto i biglietti per la mostra All'origine delle sensazioni, che è in corso di svolgimento a Villa Panza in provincia di Varese, organizzata dal FAI. Grazie. Grazie. Adesso, per chiudere, ci tiriamo su il morale, visto che parliamo sempre male dei politici. Per una volta possiamo parlarne bene. Io sono fisico, ma che politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono ritmico, ma che melodico, un corpo liquido, immerso in un solido. Io sono fisico, logico, fisiologico. In questo mondo digitale non trovo un filo logico. Come il poeta ha ragione chi è felice. Sarebbe da ascoltare di più questa canzone di Luca Carboni e Fabio Fibra, ma invece vogliamo introdurre il nostro prossimo ospite, Mauro Riccioni, sindaco di Gagliole o Gagliole. Sindaco di Gagliole, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccolo qua, il sindaco che si azzera l'indennità per pagare i debiti del comune, così hanno scritto i giornali. Esagerazione o realtà? Ma in parte la notizia è vera, poi è chiaro che tutti i debiti che il comune aveva sono troppi per annullarli. Non era possibile ripianarli con l'azzeramento dell'indennità, quindi abbiamo fatto anche altre operazioni e siamo riusciti comunque ad ottenere il pareggio in bilancio. Quindi soprattutto l'abbiamo fatto come azione che ci auspichiamo venga imitata da altri sindaci del territorio, dei piccoli comuni. Per le categorie sociali deboli in questo momento di crisi. Mi dica una cosa, intanto Gagliole in provincia di Macerata è il sindaco di una giunta, credo un patto civico, comunque di centrosinistra, o sbaglio? Allora, io sono militante e dirigente del Partito Comunista di Marco Rizzo. No, scusi, il patto civico è quello che lei ha battuto alle elezioni. Il patto civico sono gli sconfitti, diciamo, la lista civica che comunque fa capo al PD. Vabbè, comunque la sua è una lista ancora più di sinistra che del PD. È il Partito Comunista. Partito Finalmente. Comunista. Esatto, sono l'unico, dovrei essere, ecco, l'unico sindaco comunista d'Italia, perlomeno. L'ultimo dei Moicani. Allora, l'ultimo dei Moicani, se qualcuno vuole dire. Mi dica per quanti abitanti fa il suo comune? Allora, il mio comune ne fa 731. Quindi un comune piccolo. Lei dice che si può governare un paese piccolo così anche senza indennità. Perché? Si può governare innanzitutto perché la politica è missione e quindi non è un lavoro, e anche perché poi l'impegno è di 10-12 ore settimanali, quindi non è che poi bisogna stare lì tutti i giorni, certo, dalla mattina alle 8 fino alle 2 del pomeriggio fare. E questo devo dire che è un'esperienza che condivide con pochi, ma ce ne sono qualche altro. Noi abbiamo fatto per esempio l'Agnasco in Piemonte col sindaco Testa, che condividono questo punto di vista per i piccolissimi comuni. Ci dica, purtroppo siamo quasi in chiusura, come avete messo a budget questi risparmi, per fare cosa? Però davvero in 30 secondi, sindaco. Allora, noi abbiamo messo a disposizione dei bambini la mensa e dell'asilo, quindi la mensa e l'asilo sono gratuite, e poi gli altri consiglieri comunali e il vice sindaco, gli anziani, che quindi abbiamo assistenza domiciliare e casa di riposo gratuita. Abbiamo tagliato sulle consulenze esterne, abbiamo tagliato totalmente, non abbiamo speso un centesimo al maggio scorso quando ci siamo insediati, puntato sui bandi comunitari, razionalizzato la spesa della pianta organica comunale, e quindi grazie a questo abbiamo eliminato la TARES, la TOSAP, la tassa di perché giorno, qua ci si sbaglia con i nomi delle tasse. Dobbiamo fermarci, comunque abbiamo capito lo sforzo che state facendo e i cittadini credo che apprezzeranno. Grazie a tutti per questa puntata di grazie. Oggi grazie ad Andrea Piana, Giorgio De Luca e buona domenica. Camilla, che non mi ricordo mai il cognome, la nostra anima gemella da questa domenica in poi. Da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, buona domenica. Sì.